terzo anello ad alta voce, Lolita di Vladimir Nabokov, introduzione di Anna Cascella. L'aggettivo scabro viene dal latino scaber, che ha tra i suoi significati quelli di aspro, ruvido. Dal latino tardo, scabrosus, viene invece scabroso, che è anche difficile, pericoloso. Scabroso in inglese è scabrous. Non certo scabro è lo stile di Vladimir Nabokov nel suo romanzo Lolita, pubblicato a Parigi nel 1955 dall'Olympia Press. In America, dove Nabokov viveva sin dal 1940, c'erano stati dei problemi di edizione e, anzi, il narrante e protagonista in Lolita, il professore non più giovane di nome Humbert Humbert, ad apertura di libro e dunque di scrittura, quasi a dichiarazione di scelta di stile, tra ironia e sarcasmo, in modo parodico anche, si rivolge a tutti e non solo a dei possibili giurati di una corte che dovrà stabilire la sua colpevolezza, ma che non farà in tempo a farlo, giacché Humbert Humbert morirà in carcere pochi giorni prima del processo per trombosi coronarica. Quell'Humbert Humbert, a tutti rivolgendosi, dice e scrive: «Potete sempre contare su un assassino per una prosa straordinaria». «For a fancy prose style», scrive Nabokov, «già è scabroso, difficile, tradurre quel fancy, fancy prose style, prosa straordinaria, eccezionale o anche ornata o anche fantastica e, se così fosse, sicuramente con un rimando ironico e con un «be careful, attenzione, l'io narrante non sono certo io», avvisa Nabokov ai navigatori dentro il suo romanzo. Dico questo proprio perché al romanzo finito, dunque alla fine del libro, seguono tre paginette che hanno titolo Vladimir Nabokov a proposito di un libro intitolato Lolita, con la data in calce del 12 novembre 1956. E Nabokov scrive: «È infantile studiare un'opera di narrativa per trarne informazioni su un paese o su una classe sociale o sull'autore. Eppure uno dei miei pochissimi amici intimi, dopo aver letto Lolita, si preoccupò sinceramente che io, dovessi vivere tra gente così deprimente. Invece, l'unico disagio che Nabokov dice di aver davvero provato era stato quello di vivere nel suo atelier, tra membra scartate e busti incompiuti. Spero di non prendere un granchio, di non sbagliare clamorosamente, se penso che in quella sorta di postfazione al suo Lolita, con le parole, o meglio, con la parola workshop, atelier, l'autore intendesse proprio il laboratorio del libro, del romanzo, della sua scrittura, la scelta di luoghi, immagini, sostantivi, verbi, aggettivi, punteggiatura, insomma, il fancy prose style di cui prima dicevo. Torsi, membra e altro, che dovranno diventare characters, la parola inglese per personaggi. Dunque, l'io narrante Humbert Humbert, che diventerà l'assassino di Claire Quilty, un altro dei personaggi, detto Q, l'uomo con cui Lolita fuggirà, sottraendo se stessa, Lolita, all'universo terreno di Humbert Humbert e dando origine ad una delle figure capitali della letteratura del Novecento che lo scrittore Nabokov designerà con la parola ninfetta, sogno, concupiscenza, delirio, ossessione, gabbia, prigione, struttura del fancy prose style. Vi lascio all'ascolto. Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi, mio peccato, anima mia, Lolita. La punta della lingua compie un percorso di 3 passi sul palato per battere al terzo contro i denti. Lolita. Era Lo. Semplicemente Lo al mattino, ritta nel suo 1,47 m con un calzino solo. Era Lola in pantaloni, era Dolly a scuola, era Dolores sulla linea tratteggiata dei documenti, ma tra le mie braccia era sempre Lolita. Una sua simile l'aveva preceduta? Ah sì, certo che sì, e in verità non ci sarebbe stata forse nessuna Lolita. Se un'estate, in un principato sul mare, io non avessi amato una certa iniziale fanciulla. O quando? Tanti anni prima della nascita di Lolita, quanti erano quelli che io avevo quell'estate? Potete sempre contare su un assassino per una prosa ornata. Signori della giuria, il reperto numero 1 è ciò che invidiarono i serafini, i malinformati, ingenui serafini dalle nobili ali. Guardate questo intrico di spine. Sono nato nel 1910 a Parigi. Mio padre era un uomo amabile e indulgente, una Macedonia di geni razziali. Cittadino svizzero, aveva antenati francesi ed austriaci, con un tocco di Danubio nelle vene. Tra un momento farò girare alcune splendide cartoline di un azzurro smaltato. Era proprietario di un lussuoso albergo sulla Costa Azzurra. Suo padre e i suoi 2 nonni commerciavano rispettivamente in vino, gioielli e seterie. A 30 anni aveva sposato una ragazza inglese, figlia di Jérôme Dan, l'alpinista, e nipote di 2 parroci del Dorset. Entrambi esperti di materie astruse, la paleopedologia l'uno, le arpeolie l'altro. La mia fotogenicissima madre morì in un bizzarro incidente, picnic, fulmine, quando avevo 3 anni, e se si eccettua un tiepido recesso nel passato più tenebroso, nulla di lei persiste negli anfratti della memoria, sui quali, se riuscite ancora a sopportare il mio stile, sono guardato a vista mentre scrivo, era tramontato il sole della mia infanzia. Certo voi tutti conoscete gli odorosi residui del giorno che restano sospesi con i moscerini su una siepe in fiore, o vengono improvvisamente penetrati da un gitante ai piedi di un colle nel crepuscolo estivo. Un tepore di pelliccia, moscerini dorati. Io crescevo, sano e felice, in un mondo luccicante di libri illustrati, sabbia pulita, aranceti, cani amichevoli, panorami marini e visi sorridenti. Intorno a me il magnifico Hotel Mirana ruotava come una sorta di universo personale, un cosmo patinato dentro quello turchino più grande che sfolgorava tutt'intorno. Dagli sguatteri in grembiule ai magnati in completo di flanella, tutti mi trovavano simpatico, tutti mi vezzeggiavano. Le principesse russe decadute, che non avevano di che pagare mio padre, mi regalavano dispendiosi bonbon. E lui, mon cher petit papa, mi portava in barca e in bicicletta, mi insegnava il nuoto, i tuffi e lo sci d'acqua, mi leggeva Don Chisciotte e i Miserabili. Io l'adoravo, l'ammiravo ed ero felice per lui. Quando sentivo la servitù che chiacchierava delle sue varie amiche, creature bellissime e gentili, che mi tenevano in gran conto e tubando, spargevano lacrime preziose sulla mia allegra orfanità. Frequentavo una scuola inglese a pochi chilometri da casa, dove giocavo a pallamuro. Prendevo voti eccellenti e andavo perfettamente d'accordo con professori e compagni. Gli unici distinti eventi sessuali di cui abbia ricordo prima dei 13 anni, prima cioè di aver incontrato la mia piccola Annabelle, sono una conversazione solenne, costumatissima e puramente teorica, sulle sorprese della pubertà, sostenuta nel rosetto della scuola con un ragazzo americano, figlio di un'attrice allora assai famosa, che nel mondo tridimensionale gli vedeva molto di rado, e qualche interessante reazione da parte del mio organismo a certe fotografie. Più tardi, con quella sua incantevole bonomia, mio padre mi diede tutte le informazioni che riteneva potessero essermi necessarie a proposito del sesso. Fu subito prima di iscrivermi nell'autunno del 1923 a un lycée di Lione, dove avremmo trascorso 3 inverni. Ma ahimè, all'estate di quell'anno egli viaggiava per l'Italia con Madame de Haar e sua figlia. E io non avevo nessuno con cui sfogarmi, nessuno a cui chiedere consiglio. Beside a shady nook, a moment's bliss we took to talk of love. Beneath the stars above I held your hand, and then I whispered, dear, I love you, I love you. Or was it just a dream, an idle scheme of mine to fool my heart? And yet it seemed divine, it must be true. I was with you and you are mine, all mine. Just a dream, an idle scheme of mine to fool my heart, and yet it seemed divine, it must be true, I was with you and you are mine, all mine. Anche Annabelle, come chi scrive, aveva ascendenze miste, nel suo caso metà inglesi e metà olandesi. Oggi i suoi lineamenti mi appaiono molto più confusi di qualche anno fa, prima che conoscessi Lolita. Ci sono 2 tipi di memoria visiva. L'uno è quando ricrei con perizia a occhi aperti un'immagine nel laboratorio della mente. E allora vedo Annabelle in termini generici come pelle color miele, braccia esili, capelli alla maschietta, lunghe ciglia, bocca grande e lucente. L'altro, quando evochi d'un tratto occhi chiusi nel buio interno delle palpebre, la replica oggettiva, esclusivamente ottica, di un viso amato. Un piccolo fantasma dal colorito naturale. E così vedo Lolita. Lasciate quindi che nel descrivere Annabelle mi limiti compostamente a dire che era una ragazzina adorabile, più giovane di me di qualche mese. I suoi genitori, vecchi amici di mia zia e barbosi quanto lei, avevano affittato una villa non lontano dall'hotel Mirana. Calvo e abbronzato, il signor Lee, grassa e incipriata la signora Lee, nata Vanessa, Vanessa. Ah, come li odiavo! In principio Annabelle e io parlammo di cose inessenziali. Lei continuava a far scorrere tra le dita manciate di sabbia fina. La morbidezza e la fragilità dei cuccioli ci procurava la medesima intensa sofferenza. Lei voleva fare l'infermiera in qualche affamato paese asiatico. Io volevo diventare una celebre spia. Tutto a un tratto ci innamorammo. Pazzamente, goffamente, spudoratamente, tormentosamente. E senza speranza, dovrei aggiungere, perché l'unico modo di placare quella mutua frenesia di possesso sarebbe stato assorbire, assimilare, sino all'ultima particella, lo spirito e la carne dell'altro. E invece, Non potevamo neanche accoppiarci come due monelli di periferia avrebbero senz'altro trovato il modo di fare. Dopo uno spericolato tentativo di incontrarci di notte nel suo giardino, godemmo di un'intimità limitata fuori dal campo uditivo, ma non visivo, dei bagnanti sulla parte affollata della plage. Là, a pochi passi dai grandi, stavamo sdraiati tutta la mattina sull'arena a soffice, in un pietrificato parossismo di desiderio, e approfittavamo di ogni benedetto lapsus dello spazio e del tempo per toccarci. La sua mano, semi nascosta dalla sabbia, avanzava furtiva verso di me, le sottili dita abbronzate come sonnambule si facevano sempre più vicine, e poi il suo ginocchio opalescente iniziava un lungo cauto tragitto. Qualche volta un bastione occasionale costruito dai bambini più piccoli ci forniva riparo sufficiente per sfiorarci le labbra cosparse di salsedine. Quei contatti incompleti portavano i nostri giovani corpi sani e inesperti a un tale stato di sovreccitazione che neppure l'acqua fredda e azzurra nella quale continuavamo ad abbrancarci poteva darci sollievo. Fra alcuni tesori perduti nei vagabondaggi dell'età adulta c'era un'istantanea scattata da mia zia. La foto risaliva all'ultimo giorno di quella nostra estate fatale e ad appena qualche minuto prima del nostro secondo estremo tentativo di contrastare il destino. Col più futile dei pretesti, era la nostra ultimissima occasione e non ci importava di nient'altro. Fuggimmo dal caffè alla spiaggia e lì, in un tratto solitario, all'ombra violetta di certe rocce rosse che formavano una sorta di grotta, ci abbandonammo a un rapido scambio di avide carezze a cui assistette soltanto un paio di occhiali da sole perduto da qualcuno. Io ero in ginocchio e sul punto di possedere il mio tesoro, quando due bagnanti barbuti, il vecchio del mare e suo fratello, emersero dai flutti lanciando una salva di scurrili incoraggiamenti. 4 mesi dopo, Annabelle morì di tifo a Corfù. Thank you. Continuo a sfogliare questi infelici ricordi e a domandarmi se proprio allora, nello scintillio di quell'estate remota, abbia avuto origine la crepa che percorre la mia vita, o se invece il mio smodato desiderio di quella bambina fosse soltanto la prima manifestazione di un'innata peculiarità. Ecco, quando cerco di innalzare le mie brame, i moventi, le azioni e così via, io mi lascio andare a una sorta di fantasia retrospettiva che nutre la facoltà di analisi con infinite alternative. E così ogni via immaginabile si biforca e triforca senza posa nella complessa, snervante prospettiva del mio passato. Eppure sono convinto che in un certo modo magico e fatale Lolita cominciò con Annabelle. So anche che lo shock della sua morte consolidò in me la frustrazione di quell'estate da incubo e per tutti i freddi anni della mia gioventù ne fece un ostacolo permanente a ogni successiva storia d'amore. Osservato per la conclusione della mia fase Annabelle il resoconto di quel primo tentativo fallito. Una sera, lei era riuscita a eludere l'accanita vigilanza dei suoi. Ci appollaiammo su un muretto diroccato alle spalle della loro villa, in un trepidante boschetto di mimose dalle foglie sottili. Mentre le baciavo l'angolo delle labbra dischiuse e il lobo ardente dell'orecchio, Annabelle era percorsa da un fremito. Sopra di noi, tra le sagome delle lunghe foglie sottili, baluginava pallido un ammasso di stelle. Quel cielo vibrante pareva nudo, come era lei sotto il vestitino leggero. Vedevo il suo volto nel cielo, stranamente nitido, quasi emettesse un proprio fievole bagliore. Le sue gambe, quelle gambe adorabili e vivaci, erano leggermente discoste, e quando con la mano trovai quel che cercavo, un'espressione sognante e arcana, metà piacere, metà sofferenza, pervase i suoi tratti infantili. Era seduta appena più in alto di me, e non appena quell'estasi solitaria la induceva a baciarmi, la sua testa ricadeva con un moto morbido e languido che era quasi doloroso, e le ginocchia nude mi catturavano il polso per poi scostarsi di nuovo, e la sua bocca tremula, distorta dall'asprezza di chissà quale occulta pozione, mi si accostava al viso prendendo fiato con un sibilo. Dapprima cercava di dar sollievo al tormento d'amore strofinando bruscamente le labbra aride contro le mie. Poi il mio tesoro si ritraeva con una scossa nervosa dei capelli e di nuovo si faceva oscuramente vicina e lasciava che mi cibassi della sua bocca dischiusa, mentre con una generosità pronta a offrirle tutto, il mio cuore, la mia gola, le mie viscere, le facevo tenere nel pugno maldestro lo scettro della mia passione. Ricordo un profumo di talco, credo l'avesse rubato alla cameriera spagnola di sua madre, una fragranza di muschio dolciastra e plebea. Si mescolava al suo odore di biscotto e i miei sensi furono d'un tratto colmi fino all'orlo. Un improvviso trambusto nel cespuglio vicino impedì loro di traboccare. E mentre ci staccavamo l'uno dall'altra, prestando ascolto con le vene dolenti al rumore causato probabilmente da un gatto in cerca di preda, dalla casa giunse la voce di sua madre che la chiamava con voce sempre più ansiosa, e il dottor Cooper uscì in giardino zoppicando ponderosamente. Ma quel boschetto di mimose, la caligine delle stelle, il fremito, la vampa, l'ambrosia, il dolore è rimasto con me, e quella bambina dalle membra di mare e la lingua ardente non ha mai cessato di perseguitarmi, sinché, finalmente, 24 anni più tardi, non ho spezzato il suo incantesimo, incarnandola in un'altra. (Susurra) with you the first time I looked into them eyes. And you have a certain little cute way of flirting with them eyes. They make me feel so happy. They make me feel so blue. I'm falling, no stalling, in a great big way for you. My heart is jumping. You started something with them eyes. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. They sparkle, they bubble. They're gonna get you in a whole lot of trouble. Oh, baby, them eyes. Fantastichini ha letto Lolita di Vladimir Nabokov, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.